Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Nel giro di qualche anno gli autisti potrebbero essere messi in grado di guidare camion e altri mezzi, diciamo in ogni parte del mondo, da casa loro. E questo è uno degli scenari che concretamente si apriranno con la diffusione in un futuro ormai prossimo del cosiddetto 5G, cioè la rete per dispositivi mobili di nuova generazione, di cui tanto si parla sui giornali in relazione più che altro alle vicende geopolitiche. Ebbene, uno dei prototipi più avanzati di questa tecnologia è stato sviluppato, se volete farvi un'idea, dall'azienda svedese Voisis. È piuttosto facile trovare alcuni video in rete in merito agli esperimenti che stanno conducendo e che insomma rendono molto bene l'idea di ciò di cui stiamo parlando, ma ancora meglio sono sicuro ci renderà idea insomma di questa prospettiva che si sta aprendo Damiano Frosi, che è direttore dello Osservatorio Contra Logistic del Politecnico di Milano, che è qui con me. Benvenuto, anzi bentornato, Damiano Frosi. Grazie, buonasera Melis, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora Frosi, prima di tutto dobbiamo spiegare perché il 5G, perché bisognava attendere il 5G per provare a dare corpo a questa idea di guidare a distanza dei mezzi, dei camion e anche altre cose. Certo. Detto in maniera molto semplice, i benefici principali del 5G che permettono quindi questa evoluzione sono due, cioè trasmettere una grandissima quantità di dati in poco tempo e soprattutto avere annullati i tempi di risposta, i tempi che vengono chiamati di latenza in termini tecnici, quindi di rispondere prontamente, più velocemente assolutamente dell'uomo a dei segnali, a delle risposte. Per esempio, tra il momento in cui viene ripresa l'immagine di ciò che sta di fronte al camion, per esempio, e il momento in cui viene visualizzata dall'operatore, che magari potrebbe stare a 2000 km di distanza, deve passare qualche millesimo di secondo, altrimenti si va a sbattere. Esattamente, proprio così. Tempi davvero vicini allo zero di risposta. Allora, proviamo a descrivere come potrebbe funzionare il sistema, quello immaginato da Voisis, ma più in generale, insomma, sistemi di questo genere. Allora, livelli di sicurezza altissimi, ci sono delle camere montate a bordo del mezzo, delle mappe che, diciamo così, danno l'idea della strada in real time, e un autista che da casa, o un operatore se vogliamo chiamarlo forse più in maniera propria così, vede... Un videogiocatore quasi. Sì, un videogiocatore, dobbiamo stare attenti che comunque stiamo parlando di lavoro e della realtà, quindi in un videogioco si possono commettere errori, qui è meglio non farlo, però esatto. Si troverà quasi come in cabina, anzi probabilmente con più informazioni rispetto a quelle che può avere in cabina e con minori fonti di distrazioni. Quindi avrà uno schermo, vedrà come se fosse a bordo mezzo e una potrebbe serie anche segnali. Avere degli HoloLens, insomma una proiezione con quei particolari occhiali in realtà virtuale, ma quindi insomma una ricostruzione quasi indistinguibile dall'esperienza che questo autista vivrebbe su un camion vero. Anzi, ancora forse più migliore della realtà, forse migliore della realtà, perché grazie appunto alla realtà virtuale che ha appena accennato possono arrivare dei segnali come uno stop, un dare la precedenza, un veicolo che si sta comportando in maniera anomala proprio dal sistema, ecco, quindi non serve l'occhio umano ma il sistema già avvisa di questi possibili ostacoli, di questi possibili problemi. Se non c'è campo, che succede però? Giustamente, domanda giusta, ovviamente i livelli di sicurezza come accennavo sono altissimi, quindi ci sono dei sistemi che intervengono prontamente qualora ci fosse un'anomalia e quello che viene fatto, il mezzo viene messo in sicurezza, quindi viene fatto rallentare, non fermare bruscamente perché sappiamo che questo è un pericolo e diciamo così accostare sulla strada per poi riprendere in caso di segnale che ritorna. Insomma, questi mezzi dovrebbero avere comunque delle capacità di guida autonoma che poi sono quelle che forse ormai troviamo già sui veicoli attuali, ma ci vogliono queste capacità, no? Quali sono i vantaggi per la filiera della logistica nell'ipotesi di dar vita a questo paradigma? Allora, i vantaggi sono certamente notevoli. Ne avevamo parlato anche tempo fa. Partiamo innanzitutto da un contesto in cui ci sono pochi autisti ed è bene quindi migliorare lo stile di vita di queste persone. E sicuramente la possibilità di lavorare in un ambiente più confortevole, dell'essere in giro, aiuta sicuramente e porterà probabilmente più persone a essere invogliate a svolgere questo tipo di lavoro. Quindi innanzitutto avremo più autisti o più operatori disposti a svolgere questo lavoro. Migliora il loro stile di vita, probabilmente si potrà lavorare anche su tempi di guida più allungati, questa è una questione normativa, ma immagino ci saranno dei cambiamenti anche su questi aspetti. E poi fondamentale, si potrà cercare di sfruttare il mezzo, attendere 24 ore su 24, mentre ora ci sono dei tempi tecnici di attesa, di sosta, di cambio autista nel caso ci sia un mezzo associato a più autisti, ma che non sono assolutamente banali. Il fatto che l'autista sia in remoto, anche a 2000 km, come diceva giustamente lei, permette più facilmente questi cambi di casacca sul mezzo. Potrebbe quasi non fermarsi neanche il mezzo e esserci il cambio autista in una frazione di secondo, no? Tutti questi scenari quando però potrebbero prendere corpo? Quali potrebbero essere le tempistiche e come la mettiamo con la guida autonoma? Anche lei sta arrivando e sembra fare concorrenza a questa guida da remoto. Giusto ragionare sui tempi. Sappiamo che il 5G è una tecnologia che sarà disponibile in ampia scala a brevissimo, quindi parliamo di 2020-2021, quindi la tecnologia c'è. Ecco, per arrivare, diciamo, a una messa su ampia scala di questa tecnologia di guida da remoto probabilmente ci sarà da aspettare qualche anno in più. Personalmente vedo degli step successivi. Si vedrà prima quello che viene chiamato platooning, quindi un insieme di camion che viaggiano, diciamo così, in fila portando dei risparmi notevoli. Una specie di treno virtuale in cui i convogli sono attaccati l'uno all'altro digitalmente, però se il primo frena, tutti frenano istantaneamente. Esatto, no? Treno virtuale mi sembra il nome più appropriato. Io vedo questo stadio, che sarà sperimentato già dal 2020 anche in Italia sulle autostrade, come primo stadio, poi sicuramente qualche anno per arrivare a questa guida da remoto, per poi un'ulteriore evoluzione sui camion a guida autonoma. Mi permetto di dire, questi tempi servono anche per arrivare probabilmente a un cambio del parco mezzi a disposizione in un'ottica di una logistica sempre più sostenibile, ci teniamo tutti tantissimo, quindi sarà associato probabilmente a un passaggio anche all'elettrico del parco mezzi. E va bene, allora speriamo di vedere questi passaggi nei prossimi anni con i nostri occhi. Grazie a Damiano Frosi. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, appuntamento come sempre a domani. Buona serata.